HF, io usavo lavoro, già sento tutto, grazie lo stesso. No, ho fatto avaria e sta viaggiando su una nave, la Tirrenia è incasinata, la sta prendendo di nuovo lo Stato. Cos'è, un motore sta andando con la macchina, con la nave, ogni tanto ne ha una nuova, per risparmiare carburante, cos'è, un motore sta andando. No, una gli hanno fermata, la Tirrenia onorato gli hanno fermata, e questa che sta viaggiando ha fatto avaria, dai. Ho capito, dimmi una cosa, quanti ne sono sbarcati l'altro giorno? Tu mi hai detto che da Civitavecchia ne sono venute 500 macchine, e da Genova quante ne sono scese di macchine? Non lo so perché io ero nell'altra nave di Civitavecchia, capito? Quindi Tirrenia c'è l'altra squadra. Certo, ma 500 macchine di media saranno almeno 2000 persone, no? Se non 2000, 1000, 1500, fai 1000, senza contare quelli a piedi. No, io sto parlando in tutto, cioè se ci sono 500 macchine, mediamente ci saranno tra persone sedute in macchina e persone passeggeri a piedi 2000 persone, minimo. Sì, siamo messi qui. Vediamo se il Lucariello del Monte c'è ancora. Sì, sono qua, ciao Roberto. Ehi, tutto a posto, dai. Come si dice, tutto a posto, niente in ordine. Tutto disordinato, ok. Ricardi, quindi tutto a posto, dai, sono contento. Così almeno ritorni come di prima, come di ieri che stavi uscendo alla grande. Vediamo Angelino da quel di Alghero cosa ci racconta. Avanti Angelino. Roberto. Natale, dimmi. Ascolta. Siccome gli ho tolto quella rondella, la capsula, come ti sembra la radio adesso? Che gli ho messo il cottone e tutto. No, già sta uscendo bene. Mari, non sei amplificatissimo, ma stai andando bene. Perché non l'avevi fatto la prima con l'anello, con la piastra rotonda, non l'avevi già tolto la prima? No, questo è quello nuovo, quello che è attaccato al melegato, capito? Questo gliel'ho fatto adesso. Cosa ti volevo dire? Non amplifica perché è chiuso l'apparato, è l'apparato che non pompa. Non so se ti stanno parlando sopra, avanti chi è? Perché ti sentivo a colpi, Natalio. Avanti chi è? Propagazione, dai, Natalia. No, già va bene la radio, già è chiara, è migliorato rispetto al solito, diciamo, più forte. Puoi ancora andare più forte, naturalmente, c'è più forte come modulazione di qualche donato, ma ti ascolto forte e chiaro, segnale 9 quasi 20, sei 9 più 15. Questo qui più di 3 watt non dà, poi non lo puoi aprire, non ci sono schemi per sapere dove la LC, ma lo lascio così, almeno è omologato e basta, non mi buoni di nulla. Questo lo lascio così e basta. Come me l'hanno venduto, lo lascio. No, già va bene Natalia, ultima, va benissimo. Ok, facciamo riprendere Angelino, vai Angeli che forse poco fa ti hanno sovramodulato. No, è andato bene, un po' stanco, dai, un po' affaticato, sono lento, dai, ma già va bene, dai, già ci arrangiamo, non vado a buttarci in mare e facci il primo bagno e toglierci tutti questi grattacapi di questa porcheria che ne è uscita, questo coronavirus, così ci riscaldiamo le ossa, ci mettiamo un po' al sole e ci diamo un raffreddamento dentro l'acqua. Ok, ne hai visto gente al mare, non è capitata dentro, oppure dentro anche... Adesso facciamo riprendere l'amico nostro di Porto Torres, il grande motociclista da strappata, avanti oggi. Io sto prendendo un bagno in piscina a 15 euro. E salvagente ce l'ha? Come? Sì, ci sono io come bagnino. Ah, tu no, io voglio la ciambella, l'occhetta voi. C'è anche l'occhetta, se vuoi c'è anche l'occhetta, 15 euro un bagno in piscina. Va bene, mettimelo a parte, facciamo così, abbiamo un baracchino, un'antenna, cosa ti do? No, so, ci mettiamo a cane, da... ci mettiamo d'accordo, non te lo prego, non c'è problema. Ehi, vai Riccardo. Allora, come dimensioni, diciamo, come netto dovrebbe andare bene. L'unica cosa che queste qui quando arrivano a una certa posizione hanno lo snodo, quelle sono fisse. Devo vedere, smontarne una e vedere se si possono fare da due, farne una. Però la misura del foro, diciamo, dove entra dentro è uguale, lo stesso diametro. La lunghezza più o meno così, ma forse la mia è leggermente un pochettino più lunga, ma già va bene. Meglio dico la rotta, già va bene. Ho capito il coso. Ah sì sì, no, quello già va bene, vabbè quello. Adesso a proposito, Claudio non c'è, che quello che si chiama, che mi ha dato lui è di un più due, non c'entra niente con quel microfono che mi ha dato tu. Comunque l'ho trovato su internet, dai. Lo devo ingrandire perché l'ho stampato, è uscito troppo piccolo. Devo cercare di farlo un po' più grande. Un attimo, Angelino. Vai Angelino, riprendo subito con te Erika, dimmi Angelino. Ciao Angelino, ciao, buonasera a tutti. Ciao Angelino, ben sentito, dai, alle prossime, vai, chi c'era? Doppio Room, Luca e poi non so se Riccardino e Natalino l'hanno ascoltato, Eugenio, avanti prima Doppio Room. Sì, allora, ti volevo fare un interrogativo, hai per caso un'antenna giusta nera, roba da vendere? Mamma mia, mi hai sentito? Tu sì, beh, ottimo lavoro importante, non mi hai sentito, vi ho salutato. Ha chiamato adesso la Tirrenia, ragazzi, 9:15. A chi stai dicendo? A te, ho detto buonasera a tutti, ciao Roberto, lo intendi? Ah, io ho sentito che hai salutato Angelino, va bene, no, l'ho dato un po' ascoltato, a te basta che entri, non va problema, io vedo il segnale tuo, per cui so che sei tu, scla, è come che ci salutiamo con lo Smith, già lo sai tu. Capo, dai, stiamo alla porta del cane, ti volevo fare una domanda, poi rispondi a Gianni, l'hai controllato quello schema che ti ho portato? Sì, che l'ho controllato, però mi ha dato lo schema di un altro microfono, scla. Ci hai sentito darne, certo, mi schema di un altro microfono. Vabbè, ma tanto me ne sono ben, mi ha dato del più due tu. Del più due? Boh, quelle connessioni le ho fatte al più 3 io, non hai visto, sono scritte dietro. Ma non stiamo parlando delle connessioni dei dove attacchi lo spinotto, sto parlando all'interno dove c'è il circuitino, il circuito stampato, ne hanno tagliato i fili, quelle connessioni lì bisognava avere. Però da internet le ho trovate, anche se sono troppo piccoline le devo cercare di ingrandire. Le ho stampate ma sono uscite dai Macusi Vedini. Ho trovato il manuale suo, originale, e l'ho stampato. Dimmi una cosa, perché ce l'hai pure tu le istruzioni del più 3 sideri? Certo, mi sembravano quelle. Allora non sono quelle, che senso che ti ho dato quelle del più 2, perché c'ho anche quelle del più 2. Allora ti ho dato quelle del più 2, vabbè, fammele cercare. E quelle porti al tuo cognato, te lo fa ingrandire qualcosa, no? Cosa ci vuole ingrandirlo? Non è un problema. E quanti lavori le porti al tuo cognato? In cartolibreria e me li ingrandisce, me li fa, me li capito. Vabbè dai, ci sentiamo dopo, rispondi a Gianni, Gianni riprendi, falli la domanda, che non ti ha capito, che hai addormentato ancora. Sì, vabbè dai, tanto mi sa che quasi nulla. Vabbè, ho detto, se c'hai, ciao Clau, vai a portare il cane e poi siamo qua. E se hai per caso una frusta nera da vendermi. No, ne ho una e non la vendo, la tengo qua in radio per ascoltare le bande e cose, di un altro ricevitore, per il, come antenna interna dove c'è l'RDS, diciamo, un altro ricevitore, ce l'ho collegata lì, me l'ha data Salvatore Maestrale, nuova, una frusta, quella che ha la bobina cromata, è nera, con la bobina cromata sotto, la base magnetica, non so neanche che marca sia, figura. Gianni, quella della Sirio, vabbè. Chiama a Franco California, gliel'ho data io, uguale a quella che ho dato a Pinocchio Moro, quella che piace a te. se non la sta usando te la fai dare. No, ha detto che non me la dà, l'ho già detto, me lo ricordavo io, Claudio. Ho fatto tutte le mosse, ho chiamato anche a Marte per vedere se ce l'avevo e mi ha detto che le aveva tutte date, che non era niente, vabbè, ci sono su internet, però quella lì che cos'era, della Sirio? No, quella che avevo io era della Lemma. Quella della Lemma mi sa che non ce ne sono più, così, e io la volevo nera per non risultare con la macchina, capito? E non voglio una cosa molto vistosa. Questa è quello che è la mia. Ascolta, andiamo a Budujo e ne togliamo quella della macchina di Pinocchetto. Andare andiamo, ma non lo so se poi torniamo, perché ci sparano. Ah, infatti, te lo stavo per dire io. Beh, che mi raddocca. Tutte le volte ci vediamo, non tocca se lascia stare, cazzo e bocca attaccato di Sant'Enna. Mamma mia, che sugar. Giorno mio, sì, a me me l'aveva regalata a volte, regalata, ne avevo due, una l'ho data a Pinocchetto e una ce l'avevo nella macchina, io quando l'ho tolta da quella macchina, non l'ho più chiusa, dico, sembrava la guardia di finanza, l'ho data a Franco, e Franco non la molla di Sant'Enna, ma da giù, vabbè dai, vado a portare il cane a dopo. Oh, la mia comunque è una Sigma come antenna, è caricata, sarà 80 cm di altezza, nera con una molla sotto, è marchiata Sigma, un po' pesante però. Asco, cercati un mozzo, ti do la mia. Sì, Robè, l'ha fatta, quell'antenna l'ha fatta, bianca l'ha fatta la Sirio, poi l'ha fatta la Sigma e poi l'ha fatta anche la Lemmi, tutte e tre l'hanno fatta, sono tutte e tre buone comunque, sono tutte e tre uguali. Quelle bianche erano quelle che avevano inizialmente, le camionette dell'Enel, quelle camionette dell'Enel usavano quelle antenne lì, capito? Perché le avevano fatte anche sia per VHF che per UHF. Dai, vado a portare il cane a dopo. Mi cambio, Gianni, c'era Eugenio, non l'hai sentito? Ehi, l'ho sentito Eugenio. Ehi, vabbè, lascia perdere, non ci frega. Non fa nulla. Mi pare che abbandono l'idea. Ti do anche la base magnetica, ho tutto. Però l'antenna le manca il mozzo. Col filo. Perché il mozzo e il filo lo sto usando io nel furgone. Ehi, ho capito quello che hai fatto, perché ho lo stesso attacco della Turbo 2001. Esatto. Ma sai che ha parlato Riccardo in avanti? Vabbè, questa già mi dispiace, me la tengo, a parte che è un regalo, fatta con coso, con gentilezza. Ma ce l'ho sopra qua, sopra un armadio, sopra una libreria, la metto di lì e l'ho attaccato al ricevitore quello per le radio normali, 8808, perché non voglio filetti così, l'ho collegata dietro e già va bene. Vabbè, dai, non c'è problema, non voglio pubblicare nessuno, io ho solo chiesto se ce l'avevi. Perché qua la Sassa non se ne trova, se no me l'avrei presa qua. E stamattina sono andato a Fusaro, ci aveva solo il tubo 2000 euro, io mi sento di mani così, non li posso più, ce l'avevo già nell'altra macchina, ma è troppo pesante come antenna, e poi nella macchina nuova non ci metto la magnetica, quando devo parlare, mi hai visto il baracchinetto che ho, per evitare di portare quell'antennina piccola, e quella lì sì, va bene, ma sino a un certo punto. Tieni di chissà già che già va bene, è inutile avere barrasone, tanto poi se non ti ascoltano, pazienza, cosa devi fare, collegamenti intercontinentali? No, da Platta 1 ci ho parlato qui con Sassari, non c'è problema, però, vabbè, magari se vai fuori e cosa, capito, almeno l'antenna che rende di più. Almeno te ne porti un'altra di scorta o li allunghi, non si può sostituire il coso, solo la lazza diciamo. No, negativo, ho già comprato una base magnetica stamattina da Fusaro, stavo per comprare anche l'antenna e praticamente sono andato a pagare col banco ma e non passava e poi mi ha detto vai la banca di fronte, ritiri su di Almeno. Sono andato e mi diceva che la carta era inutilizzabile. Ho guardato e mi avevano mandato praticamente dalla banca a San Paolo un messaggio, siccome era scaduta la carta, mi avevano scritto che c'era un mese ancora di tempo per usarla, che praticamente sicuramente la potevo usare ugualmente si può andare in fama l'altra, perché non era ancora arrivata. E invece non me la passa, vede nei negozi, vede lì, e ho fatto anche una brutta figura. Anche se avevo i soldi contati, ma non mi andava a ridarli, devo comprare altra roba. E niente, sono andato in banca e praticamente sono andato al bancomat, la prima cosa che ho fatto è guardare sempre nel mamma. Oh, nel bancomat mi ha dato i soldi, lo sai. Non so, questo cazzo di soldi digitali è un problemino. Si dice sì, il futuro è quello, però deve essere efficiente il futuro, deve essere una cosa per dire collegata come i cellulari, che qualunque parte ti spussi, invece andi in equipe, il bancomat non funziona, il dato se non c'è linea, non c'è l'altro, eccetera. È una cagata, dai. Lasciamo perdere. Ok, Riccardino, non hai detto però quando ti arriva con l'antenna. Con l'antenna, scusa, col microfono. Ok, avanti il brecco. Ciao Roberto, buonasera. Buonasera anche a Gianni. Ciao Fra, ben sentito. Oh, scusate, sto prendendo due poltrone in pelle nuove con un divano, 101 euro. Scusa un attimo, oggi Fra, la fa un passaggio. Chiamo di propagazione, è qua lui, non ci capisco nulla, allora. Chiamo QRM, allucinante. Magari stai usando Fra. Adesso sto usando il 680. Ho capito. Che la sto usando bene, là. Ma non lo so perché l'ho toccato di nuovo, un casino, guarda. Vedo che qua sei di tu, Sarrazio, guarda sulla terra. No, ruba. Ma bene, sta andando almeno. Ma lo so, è stato toccato qua, adesso è un casino. Oh, Franco, Marco, Claudio, ci sei? Io sì. A Claudio. Claudio è uscito a portare il cane. Ma tu non lo ascolti, Robè, a Franco, sei 80. No, l'ascolto bene, niente da dire, poco fa era un pochettino troppo compresso, non mi piaceva, adesso sta facendo bene, non è potentissimo, il segnale è 9.15 qua. Allora posso aumentare ancora il microfono ieri, vabbè, se no va bene, sto usando il microfono normale adesso. Ah, non hai l'MC60? No, sto usando il microfono normale adesso qua, partito, perché sono in campagna, l'MC60 lo lascio per casa. No, ora sta facendo grande, già va bene, ho voglia. Ok, stavo dicendo oggi avanti. Niente, ti serve un divano per l'officina? Per i clienti lì dove fai i preventivi, tutte cose? No, vabbè, diciamo, ci ho messo un'altra cosa, abbiamo messo dei sedili di macchina, ha fatto tutta una struttura con due sedili di macchina, al centro c'è un volante di una macchina antica, sportiva, no, già lo vedrai quando vieni, te lo faccio vedere, già è una cosa carina. Sarebbe bello anche un divano, però questo quello che abbiamo fatto noi è uno stile, diciamo, proprio, c'è come dentro una vettura, dai. È un divano in pelle, chi fosse interessato, abbinato con due poltrone, sempre in pelle. Chi fosse interessato me lo faccia sapere. Tanto lo stiamo usando. Che colore è? Ma pelle vera o quello è coppelle? No, pelle vera, non è coppelle, è pelle vera. È Gantu? Ci mettiamo d'accordo. Sì, no, mi scusa Gantu, me l'avevi già detto. Il colore volevo dire. Oggi che colore è? Marroncino, rimane marroncino. Vabbè, prova a dirlo a qualcuno. C'è un poltrone, com'è? Un divano a due posti o a tre? A due o a tre il divano, va, che ricordo. Da tre. Più due poltrone, uguali al divano, uguali identica al divano. Ma c'è il posto guida? Ah, oggi. Oh, dimmi. Ecco, se ha tre porte, c'è il posto guida? Sì, ma è via per la patente. E via della patente, la B, guarda me. No, ci vuole la C per quello. Ah, la B, HG, la B, HG va giù io. Quella ce l'ho anch'io. E oggi, mandami le foto. E oggi? Poi, dimmi. Hai sentito, mandami le foto. Sì, già te le mando. Ma in ordine ho messo male, consumato? Un po' consumato, è comunque un divano usato. Messo che poi era pagato un saccaccio di soldi perché papà e mamma l'avevano comprato per l'inquilino e avevano speso un saccaccio di soldi per queste poltrone, questo divano in pelle, super pelle. E poi, vabbè, messo nella parte tipo di inquilini, e adesso vogliamo cambiare tutto e lo stiamo dando. Manda, e poi se pensa a qualcuno ti faccio sapere. Mi ha detto 100 euro, così? Anche di meno, bro. Basta che mi volevo la casa. Eia, ok, vai Riccardino, riprenditela tu. Sacco, c'è il QRM a 9. Mi adatte che è così, il QRM, io non essendo. Guarda, è assurdo, mi quasi 9, 8 e qualcosa. Qua il QRM è 1. Proprio quasi 0. No, ma ho messo la antenna, adesso mi devo scendere solo il cavo e metto l'altra, non è possibile, cioè, sentire questi disturbi così forti. Meno male che ricevo pure bene, però ti porta un bel immondetto appresso, cacchio. Adesso c'ho quell'antenna enorme, cacchio, l'ho messa su, mi sono spaventato, non sembrava così grande. 9 metri di antenna. Che antenna hai messo? Un'antenna multibanda che mi ha data Maestrale Salvatore, fa da 0 a 30. È un'antenna di 9 metri verticale con 4 radiali. No, quanti radiali? Aspetta, l'antenna 4, 5, forse ne ha 5 di radiali, adesso non mi ricordo. 4 o 5 radiali, forse sono 5, dai. E gli ho messo 3 metri di palo, però la devo sollevare in cima perché siccome c'ha una staffa di fissaggio che se la metti proprio in cima tocca i radialini. Infatti l'ho appoggiata provvisoriamente e un radiale non glielo messa, però una bella antenna. Me l'hanno già chiesta un radioamatore se la vendevo, la sta cercando, dice cerco disperatamente questa antenna. Ho detto no, la stabilì che me la tengo io. E poi mi hanno chiesto anche il multicom, sempre un radioamatore di fuori, se lo vendevo. Ho detto no, non ne vendiamo, si rimane qua. E la voglio provare in modo che mi abbassi un po' il QRM. Adesso stai usando quella oppure stai usando la mantova? No, sempre la mantova, cioè, quella non è collegata, devo passare il cavo, perché ho fatto anche il foro dalla finestra, siccome passano una marea di cavi, adesso ne ho aggiunto uno in più, tanto per cambiare. Via! Ehi, vabbè, l'interessante è che non ti sgridi nessuno. L'interessante? Che non ti sgridi nessuno! E chi mi deve sgridare? Adesso è una casa mia, che cacchio, terrazzo, è il mio, diciamo, non ci sono problemi. Della mia famiglia, dai, non sono proprietario, però della mia famiglia. Spazio ce n'è quanto ne vuoi, ma per il momento lascio stare. Quella lì l'ho messa solo perché ce l'ho, da quanti anni ci manca Salvatore? 5-6 anni. E ha sempre il fermo, mi ha dato anche la turbo, nuova la turbo, l'ho staccata io, è nuova fiammante. Anche questa è nuova, ancora con gli adesivi. L'aveva tenuta poco quella lì, poi non l'ha tolta perché era troppo grande, è enorme. Quando c'è vento quella schicchieggia forte perché è un bel grande. La tubo 2001 me la tengo di scorta, se si dovesse rompere facendo le corna alla mantova ti piatto quella lì. La tubo 2001, la mantova, cos'è? La tubo 2001 ti ha dato? No, ho detto una fessoria, sto pensando, sta riparando tu di tubo 2000, ma quanto va a turbo, che cazzo c'entra il tubo 2000? Ah, ti stavo ascoltando. Sì, vabbè, e che a Sassari non ci sono rivenditori di antenne, non telefonate il continente, se me lo manda per contrassegno, non se ne parla nemmeno, da quale antenne non escono se non paga con PostPay o PayPal. Vabbè, se sono negozi lo puoi fare con PostPay, se sono negozi certificati dove c'è un punto di riferimento, ma privati non prendere niente, a meno che non lo conosci. Ok, cosa hai detto Riccardo? Avanti. Riccardì, ho alzato la voce, ti sento in mezzo al QRM, sei 9 abbondanti, però c'ho il QRM altissimo. Mettiti come ieri, attaccato al microfono e alza un po' la voce, se no non capisco quello che mi hai detto. Ah, non lo so, mi chiedilo Gianni, lupo grigio, dove è? La lattara, non l'ho più sentito neanche io. Ma non lo so cosa sia successo, io presuppongo che la moglie gli abbia fatto osservazione, perché gli hanno portato la cosa, la boomerang, l'ha piazzata per un giorno, è entrato, usciva un bel forte, poi non l'ho più sentito. Lo sentivo bene, 9-10, così, lo sentivo bene di radio e tutto. Ti dispiace, è una persona, speriamo che abbia le possibilità di rientrare, dai, era sempre piacevole parlare lui, molto educato, una persona cortese, mi piaceva come persona, dai. E non è morto, sembrava che stavo parlando di un morto, comunque dove già è vivo, dai, almeno ci immaginiamo che sia vivo. Ok, oggi riprenditela tutta. Dai, ne approfitto per salutarvi che mi preparo, devo scendere al posto, va, faccio una gara, andiamo uscire. Vabbè ragazzi, dai. Basta luego, tante cose calde a tutti. Sentiamo domani. Ciao. E oggi passa a casa, ti do la cara alla pesca, così mi porti qualche pesce. Oia, asciughe pesce. Oia. Va bene, dai, ciao ragazzi, ciao. Ciao, oggi, ciao. Poi a manovrare adesso di notte è un casino, va. Quando c'è buio è peggio. Cosa dico? Non ho capito, Rica. Boh, non lo so, non ho mai sentito. Boh, cioè, hai mai sentito questo Macaluso, boh? Sì, Macaluso dico, Macaluso. E lo diceva sempre Mario, quello che si sente sempre dal Portogallo. Amico vuol dire, mi sa. Boh, non è hermano, amico, boh. Ma il portoghese è diverso dallo spagnolo, non è proprio come lo spagnolo. Qua c'ho il dizionario perché c'aveva un'amica mia portoghese, ci sentivamo su Facebook. Come si chiama questa parola che cerco il nome? Significa Macaluso. Macaluso o Macaluso, boh, non si capisce bene come lo dico con me in fretta, Macaluso. Guarda nel vocabolario portoghese, ce l'ho portata in mano, Macaluso, vediamo se significa. Ma ricambio lo cocco, no? Ma la propagazione non si sente nulla, si sentono male, c'è solo il rumore, basta la propagazione. A me mi senti, sì. Ma che donne hermano, anche a questo è un locale. Boh, se mette come è scritto la parola forse la trovo, con quello Macaluso non c'è niente. Macaluso. Macaluso, sicuro che si dice, ho la pronuncia Macaluso. Che ne so, lui lo dice così, Macaluso. Brecco, brecco. Avanti, avanti. Buona, buonasera a tutti. Massimiliano forse lo sa, buonasera. Massimiliano, te lo ricordi quel portoghese che entra sempre che vuole accantarle un italiano vero? Sì, sì, Mario Almeida, Mario Macaluso. Macaluso dice? Veia, Macaluso, amico vuol dire. Vedi, Robè. Aspetta, cerco proprio la parola amico come è scritto, perché con quella come si pronuncia non ho trovato niente. Allora dicono o Macaluso o Macaludu con la D finale. Ok, comunque buonasera a tutti. Mi stavo riparando un'antenna che monterò sicuramente o sabato domenica. Scappa, Massimiliano. E che antenna è? Se non siamo troppo indiscreti. Sì, già. È una Sirio 2008, però non sono riuscito a trovare l'altezza che vuole, capito? Se 7 metri, 7-10, no, no, non c'è il fogliettino, quindi prima la sto tutta riparando. Adesso ho preparato già il mozzo, tutto bello levigato, tutti i bicchierini, ho trapanato tutto perché era senza radiali, tutti rotti. Quindi me l'ho preparato, adesso piano piano me la metto a posto. Comunque amico si dice amico, cioè amico si dice amico, non si dice, ma non c'è questa parola, non lo trovo. La frusta vera da darmi, da vendermi naturalmente, per la macchina. No, allora io una frusta vera ce l'avevo, l'ho regalata a Claudio, che poi Claudio l'ha data a Franco. Poi non so se Franco la venda, boh, non lo so. Oppure puoi chiedere a Gigi, io già. Posso chiedere a Gigi Vulcano, vedere se ce l'ha. perché Franco non la dà. Franco, siccome è nera, no, per non sfigurare troppo, io la voglio mettere con la magnetica. La magnetica me l'ho già comprata. L'antenna mi voleva la Turbo 2001 stamattina, no, ho detto. Meno male che non mi è passata la carta, se no, guarda, l'avrei presa, mi stava quasi tentando. Allora già, ti mando una foto di questa antenna che va molto molto bene. Non mi ricordo il nome, però ti devi buscare il cavo e tutte cose. C'ho solo l'antenna, che sono sicuro che ti piace anche. Aspetta un attimino, ti mando la foto, riprendete roba, vai. Io mi allontano 10 minuti, dai, arrivo tra poco, dai, e faccio mangio qualcosa e poi mi riavvicino dopo, dai. E anche io fra un po' vado a mangiare, mandamela la similia, però boh, il cavo dove cavo lo trovo, con tutta la malata. Ciao raga! Io non la voglio lunga lunga, capito? La voglio di quelle tipo caricate, però che pompano. Già, questa è bella, mi sarà 70 centimetri, non di più, forse non c'è 70 centimetri, ma è bella, te la regalo, non mi interessa, ti buschi il cavo e te la regalo. E io, mandamela a vedere. Che ragazza, allora ci vediamo. Aspetta, facendo una foto. Che ragazza. Già, io penso che, vabbè, non c'ho un metro qua, come te la potrei misurare adesso qua, giusto per darti un'idea, ma io penso che non arriva a 70 centimetri, guarda. Ah, sì, d'accordo, questo tipo di antenna, si regano le tantennali da quel dischetto che c'ha. Bravissimo, è bella mia, questa tiene 800 watt. E io va bene. Ehi, ciao qua. Ma bisogna sapere quanti metri di cavo ci vogliono e tutto. Cosa ne gioco quanto nel momento di cavetto? Oh Gianni, buone, 4 metri e sei tranquillo. In genere le antenne sono 4 metri. Vai tranquillo, poi ti regoli la stazionale da quel dischetto. Se ti piace, se no già rimane qua, problemi non ce ne sono. Io se vuoi te la regalo, problemi non ce ne sono. Anche perché questa flette, capito, non si tronca, c'ha la molla e tutte cose. Non è brutta, dai. Ma se busco il cavo, prima busco il cavo e poi ti faccio sapere. Ti ringrazio, Massimo. Il cavo vai da Fusaro, te lo compri 4 metri cavo RG58. Ma ci vuole l'attacco che va sotto con il coso di gomma e tutto. Quello di gomma c'è già per mettere nella cappotta, ci vuole quella farfallina, credo. Ma penso che andrebbe bene anche quella della cosa, della 2001, quella specie di farfallina lì. Guarda qua questa antenna, se tu la conosci. Ah, aspetti, faccio una foto sotto. Ciao Riccardino, non sapevo neanche che c'era, la verità. Dai, saluto a Claudio, Luca, Riccardino e Doppio Rum, no? E tutti quelli che ci sono in ruota. Bene Riccardino, come sei andato con il microfono? Ho cambiato tra. Ah, te lo cambia? Va bene, ma il vecchio l'ha tenuto lì? È meglio così. Io ti sento bene comunque, 9.5, radio 5, anche se sto usando un microfono palmare ti ascolto bene. Invece quei due là che ti ho mandato il link... Certo, un po' di differenza c'è, la radio col microfono amplificato è più forte, capito? Comunque ci bene anche con questo, non c'è problema. Ebbene Gianni Doppio Rullo, l'hai vista l'antenna? Ti è di tuo gradimento? Sì, è una bella antenna, già l'ho vista, sì. Adesso se vuoi busco tutto quanto, se no mi ordino la mini turbo da cosa? Da come si chiama? c'è la radio, il telefono, cosa squillendi? Va bene, va bene. Sì, sì, c'ero io stamattina con Gianni, ho comprato lo specchio e contatti a Fusaro e i fusibili per collineare che ti ho detto. E appunto mi ha chiesto a me se secondo me era così quel microfono. No, non deve essere così, io ne ho comprato due da te, non me li hai dati così, quindi quello è difettoso. Però si abbia preso solo in vetrina, capito? Va bene per Riccardo, sì, Santiago 9 anche qua va benissimo, dai. Capito, ma ci vediamo, prova a fare quella cosa che mi hai detto e poi vediamo. Devo passare a prendere quelle viti autoperforanti, come ti si chiamano? No, non è che i bulboni quelle grosse grosse, non le devi mettere piccoline, mi? No, fini, da un centimetro, uno e mezzo, capito? Metto quelle e passo anche a prendermi, speriamo, però la lunghezza devo sapere. Luca, tu che c'hai il computer acceso, guarda la Sirio 2008, quanto è lunga. Ma perché i radiali ci mancano, pezzi ci mancano? Noni, c'è tutto, i radiali li ho dovuti accorciare, claro, perché li ho trapanati e erano tutti spezzati, capito? E quindi li ho fatti tutti a 120, in realtà sono a 1,33, 1,133, capito? E io li ho fatti tutti a 1,20 perché erano tutti storti, tutti spezzati, quindi li ho fatti tutti a 1,20, tutti uguali. 2018, mi hai detto? 2008, Sirio 2008. Dove è verticale tipo la mantola? Non fa niente, Massimiliano, non fa niente, anche se facevi da un metro non fa niente. 120 va benissimo, tutti i bini. Però devi rispettare, per avere quella misura appunto di 120 e quel piano di massa con quel insomma tutto quel baramà, devi rispettare l'altezza, perché se allunghi o se accorci devi chiaramente modificare il piano di massa, capito? Non lo so, sopra c'è una brugolina dove si regola lo stilo, quella vuole messa in terra, là. Cioè in terra su un paletto così, appoggiata e regolata, capito? Quella vuole fatta fuori, ma mi porto una radio, un alimentatore fuori, il cavo ce l'ho, metto due PL e via, si prova. Quando è a posto la monto sul tetto. Ma attenzione che ti varia le stazionarie dal piano di massa a un metro dal piano di massa asimmetrie. Ma giù compreso, ma non è che la pongo a un metro, no, Claudio? La metterò a 3 metri da terra, almeno. Qua dice dimensioni prodotto, 134,6 x 12,7 x 12,7 centimetri. 12 metri, no, passi. 12 metri con l'antenna. Oh, Massimiliano, cazzo, era più lunga della mantova. Quanti metri è la mantova? 7. Mantova è 7 metri. Era più lunga della mantova. Quello me lo ricordo, però di così tanto no. Di così tanto no. No, è impossibile lui. Forse sarà 7,50 m, 8 metri, ma 12 no. Però era più lunga della mantova, me ricordo. Cosa ci vediamo? Non lo puoi assemblare così e controllare tutti i pezzi che misura è? Aspetta, l'ho compreso allora, no, claro. Non l'ho guardata adesso, mi interessava prima vedere un po' piantone, tutte cose, se era a posto, capito? È utile che io mi muovo a piazzare, a fare tutto e la pure l'antenna non andava bene. Adesso prima piano piano me la pulisco bene. Già ne troverò le misure, non ti preoccupare. Io vabbè, se manca qualche pezzo già ne abbiamo alluminio, intanto con le fine mi. Ma è grosso mentre la mantova. È fine con l'antenna, il petto di sotto è grosso, il resto è fine fine. Sì, sì, no vabbè, quello di sotto è pesante, il burro, la bobina che va, cazzo. Ehi, da lì, quel petto lì pesa, il resto è piuma. L'alluminio è quanti radiali della direttiva che ho io. Ecco, già la conosco con l'antenna, quindi di quell'alluminio, se ce n'è, se manca per dire un metro, due metri, non ne comprare già ne io di quell'alluminio lì, proprio di quella misura. Capito? Si spacca e si fa l'innesto con la fascetta. Sì. Va bene, va bene. E dopo la guardo bene su internet e vedo un po'. Ma di noi quell'antenna non ce l'ha nessuno per vedere la misura, no? Fabrizio ce l'ha quell'antenna. Che c'è? Guardate una volta, fammi Fabrizio, ti ho detto ce l'ha Massimiliano. Quella stella lì ce l'ha Fabrizio. Ma non è una stella però, Ocla. Sì, noi la chiamiamo stella, io l'ho sempre chiamata stella. C'è stella e superstella, perché c'è 8 radiali e 12 radiali. Addirittura quella lì, uguale, quella lì ce l'aveva Giulio. Ce l'aveva Giulio, l'ha tolta per montare la manco buttata per montare la manta va turbo. E la buona bugata, la manta va turbo per mettere la Game Master. Non lo so, e va bene, no, non c'è problema, già troveremo tutto. Vai, doppio room. Ehi, allora io riprendo e sto andando a mandicare. Ci sentiamo magari più tardi se entrate, non lo so. Vediamo un po', dai. Ciao a tutti, buon continuo PSO, quello che ti permette. Massimiliano, poi ti faccio sapere, se non arriva quella mini turbo, già me la prendo e mi busco l'attacco, dai. Ti ringrazio per il momento. Poggia, ma io secondo me sono sicuro che l'attacco va bene, quello anche quello della 2001 e tutte cose, perché tu inserisci quello, metti la rondella e attacchi quello lì. A me va bene, ma non lo so, se poi vuoi spendere soldi per la, 2000, per la mini turbo, prenditi quella, problemi non ce n'è, io questa ce l'ho a casa così buttata, capito? È pulita e anche carina da vedere. Vabbè, comunque, come vuoi, no? Non c'è problema, già è qua. Ma Simi, ma qual è quella che avevi nella multipla? È a lui. È bellina, è uguale a quella che avevi tu, mi piccola, Gianni. È gemella di quella che avevi tu, piccola. Come si chiama? La Minox. Era la Minox della Sigma. Quella che ho fatto io, là, praticamente. Ma la mossa è uguale, cazzo, il mosso è uguale, quello che avevi tu, il mosso della Minox, è uguale a quella che c'ha Massimiliano a casa, perché l'ho vista io, sono uguali i mozzi. No, non è così, sei sbagliato, la Minox c'ha l'attacco tipo la PDC 800, PDC 1000, eccetera, eccetera, non è così, quella è a farfalla, attacco a farfalla, Claudio. Niente, vabbè, adesso vediamo, dai, se me la ordina Marzia, mi pido quella lì, perché la voglio nera, capito? Io stavo cercando la frusta nera proprio per metterla nera l'antenna, e quello è il problema mio, che non voglio che sfiguri. Ma farfalla, perché quello che avevi tu dietro nella coda della multipla, farfalla era Massimiliano? No, non è questo, non è la farfalla. Cioè, la vite gli ho messo una farfalla io per abbassarlo un pelino, ma se no c'ha, puoi mettere anche il galletto volendo. Ma vabbè. E vabbè, già, non ti credi che questa frusta nera sia molto più bella di questa, eh? Secondo me come bellezza è più bella questa della frusta nera. A chi tu vedi che tu metti di un ruccio, tutto nido, sarà 70-80 cm e nata la cappotta della macchina, non è che sia proprio bellissima. Questa secondo me è più carina da vedere, secondo me, poi vedi tu. Problemi non ce ne sanno. Ehi, Massimiliano, ti ringrazio, dai, per il momento, poi vediamo. Adesso se c'è anche la PVC Minox, che non me la vogliono mandare in contrassegna, per quello non la so prendere, se no mi avevo abbigliato visto. Guarda, che ci sono altre cazzate già. Ma quando tu compri da un negozio, chi te la manda? Non ti manda più nessuno il contrassegno, più nessuno te ne manda questa roba in contrassegno. Già. Ti fai una PayPal, ti fai e tranquillo che i soldi non si rimangano e li recuperi, vai tranquillo. No, non è vero che non ne fa più nessuno, perché io la Game Master l'ho ordinata così, in contrassegno. Ho pagata quando mi è arrivato. Vabbè, là, vedete voi. Ok, là, riprendilo da lì. Luca, non c'è, vai Claudia. Tutti pariti siete. Riprendi le cardie allora, dai. Ah, ok, sono funzionanti, sì, qua ti ha letto. Riccardi, gliel'hai chiesto che connessioni ha, se hanno connessioni Midland o che altre cose? Ah, ok, allora va bene, dai. e almeno puoi adattarci anche anche il Sadelta, un bel microfono, quindi puoi attaccare sia il Sadelta che il Turner, quindi ti puoi già magari con un commutatore di antenna puoi inserirti due radio, ci metti un commutatore di antenna e puoi modulare sia con una che con l'altra, quando ti stanchi con una passi con l'altra. Io ho rilanciato Claudio, non si sente, Luca niente, l'ho rilanciato e non ho ripreso, Gianni sta andando a mangiare e va bene, Roberto è andato a mangiare. Addirittura. Sì, sì, no, io non mi sono mai fermato, la verità, ho sempre lavorato. Va bene, sì, no, mi stavo finendo di fare un'antenna, là, finendo, Dio, l'ho iniziata oggi. E io vai tranquillo, Riccardo, dai, non c'è problema. Ok, poi fatti mandare il mio numero da Gianni o più lui, da Roberto, che così ti mando qualche foto. Ti ho rilanciato, ciao Riccardi, dai, buona carichetta, buon tutto. Ti ho rilanciato a te, a Claudio, e non ho ripreso nessuno, là. Va bene, ok, vai Luca via. Ehi, perché in cucina questa squadra non mangia la cena? Anche io in cucina accenderei la pentola, e vi saluto, vado a vedere il mio TG, inizia il TG adesso negli 8.30 e niente, ci sentiamo Massimiliano, se vuoi stare in radio, tutta la rivi. Ok, però domani niente da fare, domani mattina e sera lavoro. Ok, dai. Ci sentiamo, ciao a tutti e buona cena a frappè. A proposito Massimiliano, sto usando il 430, sta andando bene? Non l'ho toccato, va bene? Benissimo, benissimo, va bene, ok. Va bene, dai, sempre con i 1060. Vabbè, dai, ci sentiamo, ciao a tutti, buon fine serata, break, ciao. E io, ciao Claudio, buona cena, buon tutto, vai Lugaria. Ciao Claudio, alla prossima, buona cena, buon tutto, alla prossima, ciao. Riprendi tu, ma se mi puoi far girare, per Gianni, puoi far girare tu, va. E tutto girato, vabbè, ora siamo io e tu e le rose, e sono tutti andati a cena. Ciao ragazzi, va bene meno, adesso vediamo un po', dopo mi metto alla ricerca di qualche istruzione con questa antenna, ma se Claudio mi ha detto c'è la cosa, aspetta un attimo, io dobbiamo educare da che cosa, aspetta, eccolo qua, era troppo alto, era. Niente, dopo mando un messaggio a Fabrizio, se lui ce l'ha così mi dice la misura giusta dell'antenna. Sì, ma non va, stai comprando. No, mi hanno regalato un relitto, è proprio un relitto, non so manco se va. Sì, aspetta un attimo Massimiliano che c'ho la roba a fuoco, aspetta. Va bene, ok. Ehi, hey, ciao, buonasera, ben ascoltato. Tu voglia. A posto d'ora, Marriga, attinati di denti. Beh, oggi, gaba. Ma mi ascolti o non mi ascolti? Che cazzo, sono con una, adesso cucinano bene. Perché a quest'ora? Ma per quanto riguarda il mare, è brutto? No, ha fatto a Valiglia e niente. Adesso tocca alla squadra di seconda, ci sono io. Che palle. Sì, la notte, gatta, vedete, è finito. Speriamo anche prima. Sì, allora. Cazzo, non è la notte, lo sono le 8:30, 9:30, le 10, cazzo, 9:30, e te ne siamo in via a casa, così. Vabbè, ma antenna nuda ancora, no? La notte significa dalle 10 alle 6 di mattina. Ancora niente, Massimo. Prima dell'antenna voglio chiedere un'altra cosa. adesso, allora a posto, va. Ciao Fra. E anche io quando facevo la notte era dalle 10 alle 6 del mattino, boh, invece lui la notte la chiama dalle 8 e mezza alle, anche prima delle 10. Cazzo, quindi non si piglia manco un notturno. No, io sono già in notturno, non ti preoccupare. E vai, fine in dia, il notturno inizia alle 10. Poi, ma è un'altra cosa, questo turno è pagato diversamente, è un'altra cosa. 22.06, notturno, se non passi la mezzanotte non ti date nemmeno un centesimo. Allora bisogna stare attenti, quella è una truffa. Comunque ciao Massimiliano, scusa l'entrata brusca. E ciao anche a Eugenio. Sì, non ti preoccupare, ciao Fra. Aspetta un secondo che sto ascoltando questo messaggio vocale. Arriverai anche tu alla pensione. Io devo toccare il vostro giorno in assaffante. Andamene bene, dai. Ciao ragazzi. Beh, ma se mi ha fatto un c'è anche Franco che è entrato questo Christian K2 da Porto Torres. C'è Eugenio che è a Bose, c'è bisogno di alzare la voce, mio G. Già ti ascoltiamo. Sta andando a lavorare notturno, finisce alle 6 del mattino. Grita, mi ascolti? Va bene, in che zona ti trovi? Io magari neanche c'ero, no. Va bene, Santiago 2, Radio 3, c'è anche Luca e Franco da Jus. Avanti, Franculì. Ecco, no, io non stavo neanche guardando, perché sto facendo cosa, un lavoretto. Niente, ciao Caffaluna, ben ascoltato, dai, Franco da Sosso. Guarda che non si può pescare, ti fanno verbale. E dove stai andando? Dentro lo porto? No, ma su via questo al telefono 25. Ehi, vabbè, vai da. Ci conosciamo tutti i giovani. Dove non si può entrare entriamo lo stesso. Gli amici bisogna per tutto. Cosa sei nato? Dentro lo butto, c'è a Paolo Bescio Diesel. Ciao. Sei sicuro è a mare in furo? Oggi, quando trovi quella punto grigia, rubagli l'antenna che ti serve per il camper. Perché allora si rientra la nave Canuzzi? Oggi, a me non entra la porta nuovo. Non mi baria. Va bene, là, signori, io vi lascio, là. Ci sentiamo dopo al limite, se coincide, se no buona serata a tutti, ok? Ciao a tutti, ciao. Ciao Massimo, dai, buona carica, buon tutto, ci sentiamo. C'è qualcuno qua su 10? Sensore 10? Salvi da poco, Cristian. Sensore 10? Cristian, salvi da poco. Sensore 10, c'è qualcuno? Cazzo, ciao. Ma, così lungo, Roberto. Ciao, chi sei, Franco? Peppa e Eugenio. Ma senti con Eugenio lontano, lui è. Sì, Eugenio, al porto di Porto Torres. L'ascolto perché c'ho il QRM troppo alto, per cui è in mezzo al QRM, perché ce l'ho quasi in over il QRM, lui è più o meno quel segnale lì. Eugenio, mi ascolti? Forse è sceso. Stanno andando a fare la notte, stanno andando a fare. Mezz'ora. Vai a lavorare, vai. E guadagnati i soldi. Eugenio, mi ascolti? Non mi ascolta cosa, Franco, Eugenio? Penso di sì, Eugenio. Roberto, non lo senti? Abbasso, mi ascolti, Eugenio, non va bene. E cosa? Ha detto che ti ascolta forte, ma grande. Mi ascolta forte? È grande. Io ti ascolto, Santiago, 8:30, Radio 3, diciamo 6:30 a QRM, ma già riesco a capire, non benissimo, ma più o meno qualcosa sì. Ma se ne sta scendendo per... Ci sono incontrati con Cristian. Chi è Cristian? K2. Non lo conosco, dai, questo non l'ho mai sentito. È di Sassari. Come è Fra? Che è di Sassari. Boh, ma è la frequenza perché qua. Certo, penso di sì. Boh, Cristian, non mi ricordo, può darsi, boh. Non è che c'entro tutti i giorni, a tutte le ore. A parte questi giorni già sto entrando, ma solo la sera entro. Però non l'ho mai sentito, non mi ricordo. Ero un conduttore passare la miseria, cioè io tutto un costo sono abbassato, si è abbassata la radio a segnale zero ed è il commutatore che si è spaccato, si è rotto. Già lo so, sono una cagata, anche a me l'altro giorno mi ha fatto scherzo brutto, infatti mi dicevano che stavo sbatterando di canale, boom, mi ascoltavano su un altro canale pure, e poi ho guardato dal commutatore, siccome c'è un sacco di radio collegate io, invece c'era qualche rientro e mi ascoltavano anche da altre parti. Capo, ma non è della Vittagia, è un CX 201A, sono quelli buoni. Ma tu stai parlando del commutatore o dell'accordatore col commutatore incorporato? Però sono commutatore. No, perché io faccio un sacco di passaggi. Adesso devo tarare il coso, le metti 3.000 della Magnum, che con quello non hai problemi, quello è una bestia. Solo che collegato su altre cose adesso, quando c'ho tempo, lo sposto da lì e lo collego direttamente qua al K. Sono spaventato comunque, tutte le radio, l'ho viste tutte a nonno zero, ha giurato, va, mamma mia, quello che mi ha fatto di paura è quello grande, il K, ha giurato, fatta, e mi è tutto bruciato, qualche cosa è successo, e invece ho tolto la cosa, l'ho messo in diretta, appena diretta e funziona. Sì, sì, già sta andando bene. Quanto stai uscendo adesso? No, sono 20 modulati quasi 50. Più o meno anch'io così. E dammi un rapporto di segnale, tu sei 9 più 5, quasi 10. Tu sei 8. 8? Sì. Io quante ne sono? Anche io una ventina ne sono questo. 25, eh. Capo. E questo ci sta spingendo. Forse il microfono, vabbè, il microfono in cui si spingono. Questo è 44, così mi ha detto. Più forte sta arrivando a fare. No, 680 questo. Cos'è K? Che stai arrivando più forte con l'antenna diretta. K. Diretta. Solo cosa ci ho messo? La rosma è trabbata. Il commutatore l'hai tolto? Sì, l'ho tolto. Mi sono guato qua. No, mi sono andato a zero lì. Il radio. Devo stare attenti con i commutatori. Ciao Robert, buonasera, vai. Ciao Claudio, senti, che sono una cagata qua. Non vedo l'ora di collegare le MT3000, così cacchio me ne sono tutti da mezzo queste cagate, non servono a niente, o te ne compri uno buono, però non l'ho trovato, se no devi ordinarli su internet e costano un bel di dinaro. Ma infatti l'altra volta l'ho chiesto a Tino, ne aveva uno buono, però diceva venduto. Io ho la T230. Commutatore d'antenna, carico fittizio, accordatore, rosmetro e wattmetro, della Kenwood, serio, ordinato, antenne sono HTI, commutatore 3K, VHF sono dirette, un'antenna per ogni radio, le VHF sono dirette, un'antenna per ogni radio, no, commutatori, anche a me una volta fatto così, ed era della Raipa. Sono andato a trasmettere, non c'era segnale, non c'era ricezione, non c'era niente, è andato in corto. Questo spesso è il coso mio, Claudio, tu li conosci, il CX201A. È un buon commutatore quello, se no io guardo quello che c'ero io. Come mi è andato in corto? Stavo trasmettendo, è andato tutto a zero, ho detto ma tutto c'è fulminato, no? E invece era il commutatore in corto. Così è stato a me poco fa. Sì, si è interrotto all'interno e non passava non c'era passaggio all'antenna e quindi non avevo la ricezione e la trasmissione. Da lì hai visto, commutatore, basta, uso la T230 che fa anche dal commutatore, c'ha tre antenne e vabbè è così, uso quello. Avanti, vabbè, chi c'è? C'è Eugenio lontano, non so se in questo momento c'è, spero lo rilanciamo. Eugenio ci sei? No, ma Eugenio aveva detto se ne stava scendendo perché stava parlando con Cristian, stava parlando. E sono incontrati lì al porto. Pensavo che avesse già smesso, figurati che stesse rientrando. E chi? No, so. Eugenio. C'è un'attenzione, chi è? Cosa hai detto, Cla? E cosa sei fa vedere tu? Cazzo il K2, ha detto che oggi non è fuori davanti dalla cappotta. Guarda, non scappa da lì, tu lo vedi, tra poco lo vedi, sopra un camion, lo vedi, ha un trattore, vieni, poi mettergli lo fuoco. Bucca di gommi, e arrivi. rompi balle, cosa dice lì? Oh, anche io ho sentito rompi balle, chi è? Operazione, aspetto, pronto per rompere le corna, mignolo. Oh, io come sto, mamma mia, va bene, va bene. Anzi, 4.30 è una cosa spettacolare. Fino a che usi un po' di più. Ma il DAC, una domanda, sempre pronto a funzionare o lo devi ogni volta attaccare? Là? No, sempre pronto a funzionare. È sempre pronto a funzionare. Pronto, pronto.